bisogno di voi, così che tra un po' mi ha detto, mi sto gustando il caffè e niente, fumandomi la sigaretta. Poi a quell'ora si riparte. Da Mario addirittura sei 9 più 10, quindi a voglia. Break. Avanti. Ciao Clack, la tua riserva c'è? No, non ho sentito per niente Antonio. Guarda come ti sta arrivando Roberto. Vai, 2-3 prova Roberto Quadrato, Luca ciao. Beh, altra non sta a posto, vai. Allora, perché avevi dubbi? Ho rifatto tutto l'avvolgimento nuovo, bobina nuova, ne ho tracciato tutto e ho rifatto tutto da capo. Ma passaggio, vediamo. 1-2-3 prova Roberto Quadrato. 9-10, applichi di 15, dai. Prima di 9, insomma, già hai guadagnato qualcosa. E ricezione, guarda un po' il mio. Hola. 9-15, picchi positivi. Andava bene, Robert, cosa vuoi di più? Va più per me, poi c'è una radio diversa, più chiara rimane. Marucremo, Robert. Forse sì, Mario. Non va bene, Mario, dai, parla, salta con l'altro, vai. Ma forse leggermente di più lungo ci pare. Ah, prova, Mario. Passa, io non lui. Siete pari adesso, dai, tutti e due vi chiediamo un altro. Dai, dai, è già andato allora, dai. Hai visto che ora ci sente bene tutti e due? Ho fatto un lavoro, lui, una cosa impressionante. Pensavo di buttarla via con l'antenna, dalle 9 fino a mezzogiorno e mezza, completamente tutta rifatta. Tutto avvolgimento, tutto riforato, ripassato il filo per il PL, tutto rifatto a nuovo, stazionali 1 e 1. E occhio, vabbè, là, comunque, sto attaccando questo, cioè, un po'. Un attimino, eh. Hola. Va benissimo, il lavoro è stato fatto a regola latte. Vabbè, un'altra esperienza ne siamo fatto, non avevo mai fatto gli avvolgimenti, adesso anche gli avvolgimenti li sappiamo fare. Papa, adesso serve la stazione pure per facendo. Se non facciamo così a tirare fuori quel filo non si poteva fare altro, quindi è convenuto per fare tutto nuovo, tararla bene e rimetterla in piedi. Saldato tutto, già l'hai visto, con molta attenzione, fatto nuovamente il foro e ripassato il cavo nuovo. E tu, Maico, ti sei noti, non vedi nulla a troia? Maico! Maico mio! Ciao Maria Luisa! Maria Luisa! Le prendi, Maico? Maico mio, voglio lasciare da mangiare. Ma tu lo vuol dire, chi era? Mi è sembrato il bip di Maria Luisa. Sicuramente vedi quella la punta dell'antenna del coso. Woody Woody, se stai attento a sinistra, c'è un'antenna, una mantova, c'è piazzata, lì capito? Pirandello è praticamente l'incrocio per la Budi Budi, capito? E allora non l'ho vista là, perché sono da un po' senza passare lì. No, ma io ho fin giù poi, non è verso la stella. No, no. Ma va bene, lo sai, non lo so dove abita. Ma io dai con la vicina Graziella, Gio Maria, tu non so se adesso balle o se la verità. Già mi fa piacere, almeno non la appeso qua a Trini. Adesso si tratta di spostarla da lì, metterla un po' più alta e così è a posto. Adesso facciamo una modifica su quel microfono che c'ha lui e vedrete se funziona il microfono, lo senti come esce. Stasera, ciao.